Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a questa penultima lezione di jazz. Vi ricordo che l'ultima sarà più avanti, il 30 aprile, e concluderemo questo ciclo che quest'anno è stato un po' più breve. Intanto benvenuti. Oggi ci occuperemo di jazz e cinema, quindi ci sarà molta, come dire, molti filmati da vedere, musica da ascoltare. Il sottotitolo dice la musica afroamericana al cinema, lasciando intendere che potremmo parlare anche di blues, di soul, di rhythm and blues, di ragtime, di cui abbiamo parlato un po' la volta scorsa. In realtà l'argomento sarebbe troppo vasto per essere contenuto in una conferenza, anzi ho già fatto fatica a stare nelle consuete 3 ore e mezza. No, scherzo, non spaventatevi. Già vedo qualcuno andare via, qualcuno è svenuto. Saremo in una misura accettabile. Per cui ci limiteremo al jazz. La cosa affascinante è questa, che sebbene siano emersi negli ultimi anni delle clip dei primi anni 20, quindi prima della nascita del sonoro, in cui ci sono musicisti di jazz che suonano, per esempio c'è una clip bellissima di Hubie Blake e Noble Sissol che provano dei numeri del loro musical Shuffle Along 1923, audio, con l'audio proprio, in realtà il cinema sonoro nasce nel 1927 ed è curioso che il cinema sonoro nasca con un film che reca la parola jazz nel suo titolo. Infatti Il cantante di jazz, un film di Alan Crosland del 1927, ha questo titolo, The Jazz Singer, e come protagonista c'è un grande maestro del vaudeville ebraico, Al Jolson, che vedete nella locandina e poi nella foto. Non vedremo dei frammenti da questo film, che comunque ha un'importanza epocale, perché, ripeto, è il film che poi ha indotto il pubblico ad abbracciare il sonoro e quindi tutta l'industria cinematografica mondiale, gradualmente ad abbandonare il muto per abbracciare la nuova tecnologia del sonoro, però dobbiamo fare un paio di premesse importantissime. La prima, la più banale, è che il jazz che c'è nel titolo non ha alcun riscontro nel film. Il film non ha jazz. Dovete intendere questo titolo, questa parola jazz in quel titolo, come l'equivalente oggi di pop. Come se si fosse intitolato Il cantante di pop, perché il protagonista è un giovane immigrato ebreo che, rifiutando la sinagoga del padre, vuole invece abbracciare la nuova musica leggera del momento, che nel titolo diventa jazz, quindi non è comunque un film sul jazz. Molto più importante è invece la foto che vedete a destra, il fatto che in una parte del film Al Jolson reciti in blackface. Ne abbiamo un po' parlato in una precedente conferenza, se non ricordo male l'anno scorso, quando abbiamo parlato di, sento una signora, qualcuno ha detto sì, vedete ci sono persone che veramente studiano, non come alcuni perditempo che vengono qui solo per passare la domenica mattina, diciamo così, allegramente. Dunque, dicevo, la cosa interessante è che Al Jolson adotta questa pratica che era diffusissima e anche se andava ormai declinando alla fine degli anni 20, che era quella di dipingersi il volto di nero. Ora, appunto, noi abbiamo trattato già in una precedente lezione questo tema, quindi riassumo in una frase che però è fondamentale per il proseguo della nostra chiacchierata di stamattina, e cioè: c'è un problema di rappresentazione degli individui con la pelle scura, di come rappresentarli. Poiché gli statunitensi bianchi che detengono il potere considerano coloro che hanno una pelle più scura esseri inferiori, o meglio, anche se li considerano essere inferiori, essi sono attratti dalla loro musica. In qualche modo vogliono essere come gli afroamericani. Quindi, abbiamo detto in passato, indossano questa maschera, fanno finta di essere neri. Questo, tra l'altro, da un lato, come dire, permette a chi è bianco di identificarsi con l'afroamericano senza esserlo veramente, perché poi ti togli la maschera e torni bianco. E nel film, infatti, Al Jolson è un po' bianco e un po' nero. Però il problema è un altro. come rappresento gli afroamericani al cinema? Se io amo la loro musica, ma al tempo stesso li considero infantili, inferiori, animaleschi, banali, umanamente, appunto, cittadini anche legalmente di serie B, se non di serie Z, come li rappresento al cinema? Il problema appunto è che il cinema di Hollywood, sia il cinema muto, sia fin nei primi anni 30, come vedremo nella prossima clip, rappresenta gli afroamericani sostanzialmente in modo volgare. Sono o sono degli imbecilli o sono degli animali. E quindi o sono stupidi, fanno ruoli umilianti del cameriere, dell'impiegato delle ferrovie, o del servo di casa e non capiscono, sono sempre oggetto di gag, oppure hanno qualcosa di brutale, di animalesco, di negativo. Tutti e due questi elementi sono riassunti nella prossima clip, che però, come vedremo, implica una profonda contraddizione. La prossima clip è uno dei primi filmati in cui compare un grande divo che stava emergendo in quegli anni, Louis Armstrong. Si tratta di un corto di cui vedremo solo un estratto, che dura una quindicina di minuti. Se volete, tenete conto che gran parte dei corti che vedremo, di cui vedremo degli estratti, li trovate integralmente anche su YouTube. Rhapsody in Black and Blue ci presenta una scena comica di un tipo, un afroamericano, che viene cazziato dalla moglie perché sta ascoltando un disco di Louis Armstrong e perde tempo invece di darsi da fare in casa. A un certo punto lui si addormenta, c'è questo disco di Armstrong che va e comincia a sognare. Sogna di essere un re, ecco l'elemento dell'imbecille, e lo vedrete truccato in un modo buffo, che ha al suo servizio Louis Armstrong che suona per lui. E Louis Armstrong è presentato in un modo animalesco, è seminudo, con una pelle di leopardo addosso, è una scena terribile, diciamo molto umiliante, per qualunque afroamericano o qualunque individuo, ma qual è l'elemento contraddittorio che vi voglio mostrare? È che la musicalità e la fisicità, la sessualità proprio, carnale, la potenza di questo giovane musicista, trentenne nel pieno delle sue forze, è dirompente. E rovescia completamente lo stereotipo. Voi vedete un individuo messo in una situazione umiliante, questo individuo con la sua musica fa a pezzi l'occhio del regista, fa a pezzi l'occhio della macchina da presa, fa a pezzi l'occhio della produzione che lo vuole clown. E questo clown, come vedrete, è in realtà il trionfo vitale di una carnalità creativa. You ain't no good at all, boy. Laughing grin in my face, trying to bite me in the back of my wife, you old dog. Look at that. I'm gonna get it to you. Now, I'll be glad when you're dead, you rat with you. I'll be glad when you're dead, you rat with you. And I brought you into my home, you wouldn't leave my wife alone. I'll be glad when you're dead. I will be glad when you're dead, you rat with you. I'll be tickled to death when you leave this earth, you dog. I took you for my friend, the way you bit me in the back was a sin. You ain't no good, you rat with you. Oh, you dog. Look out there. Yeah. Look out there, go, you rat. You want to go, you rat? Yeah. Yeah. Nah, look out there. As I said before, I'll be glad when you're dead, you rat with you. Boy, when you lay 6 feet deep, no more fried chicken will you eat. Oh, you dog. I knew that'd break your heart. Yeah. You know good stuff. Yeah. Lightning. You ever call him. You ever call him that. You ain't no good, you rat, for you. Yeah, you know. you want to go there? Boy, what is it? What is it that you got that makes my wife think you hot? Oh, you old dog. Yeah, you bought my wife a bottle of Coca-Cola so you could play on her big solar. You old dog, you ain't no good. Ecco, tanto per darvi un'idea, forse il regista in qualche modo si rendeva conto di avere tra le mani una persona con una potenza fuori dal comune, quando lo inquadra per esempio di spalle, no? Così si vede la nuca che si gonfia per l'effetto della pressione dell'aria nel suonare la tromba, con questa muscolatura in evidenza. C'è davvero un misto di, come dire, di banalizzazione della persona, ma al tempo stesso di attrazione per l'icona e per la sessualità di questa persona. Questo è un problema che poi attraversa, e lo tratteremo qui, attraversa tutto il cinema, anche che non tratta di musica, tutto il cinema americano, cioè quello di come inquadrare, come guardare, come mettere in scena gli afroamericani in quanto cittadini considerati di serie Z. Il prossimo esempio invece ci mostra un altro aspetto di trasformazione del corpo degli afroamericani, perché vedete qui il problema è tra l'occhio della macchina da presa e il corpo mediato dalla musica, ed è l'uso di questi musicisti, tra cui lo stesso Louis Armstrong, nei cartoni animati. In particolare ci sono tre corti che Dave Fleischer girò con il personaggio di Betty Boop, che non ha bisogno, credo, di presentazioni, uno con Louis Armstrong, uno con l'orchestra di Don Redman, e noi vediamo un estratto di quello con l'orchestra di Cab Calloway. Minnie the Moocher, che sarebbe Minnie la vagabonda che di notte va in cerca, si intuisce, di fumo, di droga, è comunque una specie di, così, di ambulante notturna, che poi si ritrova, vedrete nel cartoon, in una specie di bosco con dei fantasmi. In questo tipo di clip, di corti, che di solito tra l'altro venivano proiettati al cinema prima dei film, come una specie di anteprima, prima dei lungometraggi, in realtà si vede sempre il musicista in carne ed ossa. Cioè voi, adesso qui non c'è il tempo di vederlo, ma se ve lo guardate per intero vedrete che c'è Cab Calloway con la sua orchestra che fa una serie di passi di danza, lo vediamo inquadrato in carne ed ossa, che comincia a suonare, la sua musica fa da sfondo a tutto il film, poi a un certo punto succede una cosa per cui Betty Boop e il suo amichetto bimbo fuggono da una casa nella quale sono prigionieri e incontreranno Cab Calloway in forma di fantasma, che danza con le stesse movenze che avete visto, se vedete il film dall'inizio, in carne ed ossa, fatte da Cab Calloway. Qui il corpo del musicista nero afroamericano, perché con un bianco non l'avrebbero mai fatto, credetemi, il musicista nero diventa un fantasma addirittura, ed è sempre questo misto di minaccia e di seduzione. È minaccioso perché è un fantasma, fa paura, però è seducente perché danza in modo sensuale e si muove in un modo molto originale. Folks, now here's his stuff. story about Minnie the Moocher. She was a red hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest frail. Minnie had a heart as big as a whale. Hoody ho, de ho. Hoody ho, de ho. Hoody ho, de ho. Evidente che c'è una componente di humor indiscutibile, perché c'è naturalmente il jazz in quegli anni viene percepito, anzi è principalmente una musica intrisa di umorismo, di vitalità, e quindi anche chi lo adotta per le animazioni come questa ne approfitta di questa componente vitalistica, umoristica e perfino comica. Poi è nelle corde dell'animatore Dave Fleischer, come sappiamo, lavorare su queste iperboli, che poi troviamo molto simili anche in un'altra serie che qui non vedremo, che sono le Silly Symphonies di Walt Disney, che hanno molti elementi in comune con questo tipo di animazione. Ma il jazz è una musica nuova e quindi percepita come l'opportunità, come in questo caso avete visto, di inventarsi anche qualcosa di completamente nuovo, come questa unione di animazione e musica. Ovviamente, aggiungo un'altra cosa, scusate, per Armstrong o Cab Calloway o Don Redman, essere coinvolti in questi corti che avevano un grande successo era anche il segno di un riconoscimento di icone culturali, cioè il pubblico sapeva chi era Cab Calloway, non solo lo vede all'inizio del filmato, ma lo riconosce come icona anche sotto le spoglie del fantasma, di questa specie di facocero fantasma che danza. Quindi anche il riconoscimento dell'importanza, della centralità nella cultura popolare di questi musicisti. Vi dicevo, il jazz è una musica che viene comunque percepita come una musica nuova ed è nel cinema anche l'occasione per fare delle sperimentazioni. In particolare c'è un corto bellissimo che si chiama Black and Tan di Dudley Murphy del 1929, che è una formidabile trasposizione di certe idee del cinema sperimentale degli anni venti nel cinema musicale. Mi spiego meglio, Dudley Murphy era un regista che aveva lavorato con Ferdinand Léger alla realizzazione nel 1925 del Ballet Mécanique, che è uno dei più famosi cortometraggi, dura una ventina, 15-20 minuti, uno dei più famosi cortometraggi sperimentali del cinema degli anni venti. Chi è appassionato di cinema, chi conosce un po' la storia del cinema, sa che gli anni venti sono stati uno dei picchi nella sperimentazione visuale, soprattutto quando artisti come Man Ray, come Fernand Léger, a volte con la musica di Satie e altri artisti ancora, hanno sperimentato aspetti grafici, visuali, montaggi liberi, utilizzando la musica come collante e quindi, come dire, lasciandosi andare all'esplorazione di nuove forme visive che non hanno a che fare col racconto, sono pure fantasie visive. Murphy ha portato quella cultura negli Stati Uniti e ha realizzato questo corto che è una mini storia di cui vedremo solo un pezzetto di Duke Ellington col suo gruppo al Cotton Club, quindi era occasione di vedere anche le coreografie che si utilizzavano al Cotton Club. Tra parentesi, non a caso Francis Ford Coppola si è studiato questo film in ogni minimo dettaglio, perché poi lo cita numerose volte nel suo film Cotton Club. Quindi vediamo Duke Ellington con i suoi danzatori. Tra questi danzatori c'è però una ragazza che è interpretata da Freddie Washington, una ragazza, una danzatrice che non sta bene, si ammala e comincia a avere delle allucinazioni. Dovrebbe entrare in scena, poi entra in scena, balla, ma mentre balla cade al suolo e poi alla fine c'è una specie di funerale della ragazza che defunta con un coro, mentre l'orchestra suona Black and Tan Fantasy con uno straordinario finale fatto tutto di ombre, con questa specie di coro gospel che canta. Un film bellissimo, anche questo lo trovate integralmente su YouTube. Vi faccio vedere il pezzetto in cui lei deve entrare in scena e non sta bene e comincia a vedere tutto sdoppiato, che è l'occasione per Dudley Murphy di sperimentare degli effetti ottici sulle coreografie dei danzatori del Cotton Club. Sullo sfondo c'è l'orchestra di Duke Ellington. Thank you. annuncia l'arrivo della ragazza, la ragazza danza, vedete c'è anche questo specchio sotto, poi lei danzerà con questa idea dello specchio, c'è anche un'inquadratura a un certo punto di lei che danza ripresa da sotto lo specchio, quindi da sotto le gambe, che viene dritta dritta proprio da un'inquadratura del Ballet Mécanique di Ferdinand Léger. Questo tipo di sperimentazione è reso possibile anche perché il jazz stesso è percepito come una musica nuova, sperimentale, per non parlare quella di Duke Ellington, che ha l'aura di essere giustamente una musica di un compositore che esplora territori musicali completamente nuovi e quindi è legittimo in un certo senso muoversi anche visivamente su territori inconsueti. Ovviamente per noi questi corti non sono solamente oggetti d'arte da assaporare musicalmente e cinematograficamente, ma sono anche preziose testimonianze per vedere i nostri idoli come Duke Ellington, lì all'opera alla fine degli anni venti, con ambientazioni e coreografie che altrimenti dovremmo solamente immaginarci. Quindi sono anche testimonianze preziose di un periodo, di un tempo, di un'atmosfera perdute. Ora, nel corso degli anni 30 dovete immaginare che la segregazione razziale aveva portato non solo alla creazione di dischi che si vendevano esclusivamente agli afroamericani, ma anche di film che si facevano esclusivamente per gli afroamericani. C'era proprio un cinema All Blacks in cui gli attori erano afroamericani e il circuito di cinema della distribuzione era solo per gli afroamericani, era tutto segregato. All'interno di questo repertorio ci sono tantissimi brutti film, ma ci sono anche dei capolavori. E uno di questi è un altro film prezioso come testimonianza della musica e degli artisti del tempo, ed è Cabin in the Sky, in italiano Due cuori in cielo, che fu il film di debutto alla regia di Vincent Minnelli, un regista che, come sappiamo, aveva una sensibilità visiva e culturale in generale, musicale, decisamente al di sopra della media. Come sapete, poi farà una grande carriera. Cabin in the Sky è una storia molto semplice, ma il motivo per cui il film va visto è che è una specie di carrellata di episodi musicali e coreutici dei grandissimi dell'epoca. C'è una scena in particolare che vorrei farvi vedere perché mette in evidenza la figura di John Bubbles. John Bubbles è uno dei più grandi ballerini afroamericani, uno dei maestri assoluti del tip-tap, ed è stato l'ispiratore, l'unico vero grande ispiratore di Fred Astaire, che in sostanza danzava esattamente come John Bubbles. La differenza fra Fred Astaire e John Bubbles è che Fred Astaire era bianco e quindi aveva accesso a privilegi produttivi che John Bubbles non ha mai avuto. Di Bubbles conosciamo poche clip sparse, lui in particolare aveva un duo con il suo partner pianista, si chiamano Buck and Bubbles. Qui con l'orchestra di Duke Ellington sullo sfondo fa un numero all'interno di Cabin in the Sky che non è sottotitolato a un'edizione americana, ma non c'è praticamente dialogo, vedrete, solo un pochettino all'inizio, lui che arriva, chiacchiera con gli altri e poi si mette a danzare. E ve lo faccio vedere perché non solo c'è la bellezza visiva dell'occhio di Vincent Minnelli, ma perché questo genere di film appunto sono la testimonianza, sono l'opportunità di apprezzare degli artisti che altrimenti il sistema produttivo, in quanto afroamericani, considerava ai margini. Hey, look who's present. Knock me down if it ain't Domino Johnson. When did they let you out? Tonight. Questo è John Bubbles. I had a 6 month lease on that cell. Welcome home, Domino. Glad to be with you. Big boy. Yeah, babe. Easy, honey, easy. Hello, Domino. Hello there, Jim Henry. Hi, Domino. Hi, dude. Ain't nobody rather see than you, Domino. Come on, have a little drink. Thanks. Possiamo alzare un filo, grazie. Things sure look prosperous. The last time I was here, one of the characters tried to operate with a pair of imperfect diets, remember? You know, I don't think little Joe knew they were loaded. Well, he found out. What will it be, Domino? A little ride. Oh, that's all right. It's on the house. A little ride. Duke Ellington's band. Where'd all this prosperity come from? Well, as a matter of fact, most of the bankroll came from little Joe. Yeah, he's just loaded down with money. He gave me this 20 just for shining his shoes. You better keep him away from me. You don't intend to start any more trouble with him, do you? That's up to him. As a matter of fact, I'm here entirely for social purposes. Suppose you tell Miss Georgia Brown that our old friend Domino Johnson is back in circulation. I'm not sure she'll be in this evening. She's still working here, ain't she? Yeah, when she feels like it. If she gets in at all, it won't be till late. Then I'll stick around. Got a game going upstairs? Yeah, a little stud poker. Well, I'll stroll up and take a few hands. But don't forget to let me know when Georgia gets here. We certainly won't. He sees her with little Joe. This time, I ain't gonna use the dough. I'm going out the window. Well, look who's here. Domino. Well, come on, baby. You gonna do any shooting tonight? Yes, sugar, but only with dice. My, you do look sharp tonight. Yeah? Mm-hmm. What is there about me there? What is there about you what? Makes me feel well dressed. Whatever that is, that's what you is. The same old clothes, shoes, and hat. The same old things rearranged. Oh! It's very plain to see just how it happened to be. I put some polish on my Scott piece. I made a shoestring into a tie. I cut the corners off the end of my coat so they wouldn't fly. I got my shirt from a silver lining. I got my cane from an old oak tree. And that is just the reason why the folks all nickname me just because my hair's curly and because my teeth are pearly. And just because I always wear a smile and suits to dress up in the latest style. Gee, I'm glad I'm living. Why take troubles all with a smile? Just because my color's shady, a wee bit different maybe, that's why they call me shy. Non si sa se è più bella la coreografia o la messa in scena di Minnelli, che veramente... E fateglielo un applauso, è veramente... è veramente meraviglioso. Cioè, qui vedete che c'è un occhio che considera queste persone, non le considera una, come dire, dei buffoni, ma li considera grandi artisti e li mette in una cornice di grande arte, giocando moltissimo. Per esempio, chi ha un occhio più cinematografico avrà notato l'uso del piano sequenza, cioè il fatto che ci sono pochissimi tagli in modo da aiutare il danzatore a muoversi in continuità senza dover subire i tagli del montaggio, e quindi dando il senso della fluidità e della ricchezza del movimento, oltre che del gioco del bianco e nero, delle ombre, dei primi piani, del corpo intero, di profilo, di lato, di fronte. È veramente magistrale come messa in scena. Qui c'è una maturità nello sguardo che sa valorizzare la grandezza di questi artisti. Tuttavia, questo tipo di ricchezza non c'è in generale nei documenti che abbiamo sui musicisti di jazz, cioè sui jazzisti che suonano, perché li vediamo soprattutto nei cosiddetti soundies, che sono come l'equivalente oggi dei videoclip, che erano dei corti di 3-4 minuti in cui vedevate l'orchestra di Duke Ellington, quella di Benny Goodman, Coleman Hawkins, Count Basie, eccetera, che suonano in un contesto cinematograficamente molto povero. Sono molto belli e molto interessanti da un punto di vista strettamente documentario, ma dal punto di vista visivo, del montaggio, dell'artisticità cinematografica, sono molto poveri. Questa situazione è destinata a cambiare quando un grande fotografo decide di fare un cortometraggio su dei musicisti di jazz, e allora la musica letteralmente cambia. È un fotografo che si chiama John Mealy, che di lontana origine albanese, che era un noto fotografo che lavorava soprattutto nel campo della musica, e Mealy a un certo punto decise di fare nell'immediato dopoguerra un cortometraggio che si chiama Jamming the Blues, anche questo lo potete vedere per intero su YouTube, nel quale mette all'opera due cose importanti. La prima è quel gusto sempre per l'attenzione visiva sperimentale che avete visto anche nel corto su Duke Ellington, in Black and Tan di Dudley Murphy. Ci sono, come vedrete, dei giochi ottici che servono a dare anche un certo ritmo jazz. Dall'altro c'è un'attenzione visiva alla fotografia in bianco e nero straordinaria, vagamente influenzata tra l'altro dal noir, dal cinema noir di quegli anni, e naturalmente da un fotografo come Mealy non potevamo aspettarci di meglio. E poi c'è quello che non c'è nei Soundies, cioè un'attenzione al montaggio che segue la musica, che ha spogliato la musica di tutti gli elementi più banalmente spettacolari, più terra terra, più commerciali, perché in modo che lo spettatore possa concentrarsi sui musicisti, sulla loro creatività. Jamming the Blues è il primo film in cui voi potete apprezzare i musicisti di jazz per quello che fanno. E non sono musicisti qualsiasi. All'inizio vedrete il batterista Sidney Catlett che dà il cambio al batterista Joe Jones dell'orchestra di Count Basie. Il solista di sax tenore principale è Illinois Jacket, ma all'inizio del film, in qualche punto qui, si vede anche Lester Young. Il trombettista è Harry Edison. Insomma, c'è un giro di musicisti di primissima qualità. E naturalmente c'è anche la danza, perché la danza è sempre legata al jazz in quegli anni ed è uno degli aspetti più spettacolari. Noi vediamo la parte finale di Jamming the Blues. Beep! E Jam in the Blues per molto tempo rimane un caso più unico che raro, nella sua bellezza visiva, nell'attenzione per la musica, nel rispetto per i musicisti, anche se i guardiani del moralismo sono sempre allerta. Per esempio, lì in mezzo c'è un bianco, che è il chitarrista Barney Kessel, e quindi si è scoperto più tardi, nel primo piano delle sue mani, le mani sono state leggermente scurite, perché non si può vedere un uomo bianco in un film insieme a dei neri, altrimenti il film non riesce a circolare. Quindi si arriva a questo livello di ipocrisia, scurire lievemente il musicista in modo che risulti etnicamente, razzialmente omogeneo col resto. Un aggettivo terrificante, omogeneo. Questo esempio è rimasto una rarità, anche se poi abbiamo un sacco di altri esempi, anche di mescolanza, per esempio, di pupazzi animati e personaggi dal vivo. Ce n'è uno molto bello fatto da George Pal con Duke Ellington, ma direi che la svolta sia alla fine degli anni 50, quando il jazz ormai torna a essere una grande musica di massa, soprattutto per un pubblico bianco, grazie alla diffusione di un nuovo format che nasce intorno alla metà degli anni 50, il Festival di Jazz. C'è un posto all'aperto, il modello nasce in Francia, a Jean-le-Pen, insomma nel sud della Francia, a Nizza e dintorni, e poi viene esportato a Newport negli Stati Uniti e poi a Monterey in California, e ancora oggi è sempre lo stesso. Luogo turistico, meglio se di mare, d'estate, con un palco nel quale durante la giornata si succedono diversi musicisti. Il Festival di Newport diventa il modello internazionalmente imitato di questo approccio e nel 1958-59, non mi ricordo più, 59, Bert Stern e Aram Avakian fanno un documentario che è entrato nella storia, che si chiama Jazz on a Summer Day, un documentario che racconta la giornata, una giornata del Festival di Newport, dal primo pomeriggio fino a notte fonda. Questo film è stato molto discusso e molto celebrato, anche questo lo trovate integralmente su YouTube, dura poco più di un'ora, ed è un film molto affascinante, ma anche pieno di contraddizioni. Per esempio, nella prima parte Bert Stern si concentra tanto sui musicisti quanto sulle barche. Newport è un centro per i velisti, per coloro che hanno le barche a vela e vogliono navigare nel mare antistante, e quindi voi sentite, che so, Thelonious Monk e contemporaneamente vedete le barche a vela sull'Atlantico. Quindi c'è questo elemento turistico, di un turismo poi peraltro ricco, infatti non si vedono, tra l'altro ricco e bianco, non si vedono facce nere per quasi tutto il film tra il pubblico. L'altro elemento interessante è che Bert Stern, anticipando un modello che poi verrà utilizzato nei documentari rock, sul rock, se ne va in mezzo al pubblico, porta la macchina da presa in mezzo al pubblico e cattura, registra le reazioni del pubblico ai musicisti. Cioè ci ricorda che il jazz non è solo il musicista che sta sul palco, ma è interazione con quello che succede di fronte al pubblico, con il pubblico. E nel frammento che vedrete, piuttosto breve, c'è il quartetto di Jerry Mulligan con Art Farmer alla tromba, e la Stern, devo dire con una certa abilità, monta la musica di Jerry Mulligan con la varia umanità che popola la platea che l'ascolta. Qui siamo già a notte fonda, siamo a metà film e tutta la luce, diciamo, è buia, mentre nella prima parte era proprio pomeriggio. Thank you. Bellissima clip, tra l'altro ci mostra che Stern ebbe un sacco di, come dire, di mezzi, perché ci sono, avete visto sul palco, molti punti di vista diversi, no? Da sotto c'è Art Farmer quasi da dietro, Mulligan, montati con grande abilità e a parte, diciamo, l'interesse di Stern per le bionde col rossetto, però la cosa affascinante è che questo tipo di documentario per la prima volta cercava anche di catturare il comportamento dei musicisti al di là della loro apparenza professionale. In Jam in the Blues li vediamo suonare in posa e fare il loro numero. Qui vediamo le occhiate che si scambiano, vediamo il divertimento, il nervosismo, l'approccio più distaccato, la reazione del pubblico. In altri punti del documentario vediamo il backstage, Anita O'Day che si prepara dietro le quinte e chiede se può andare, se è pronta. Insomma, cogliamo qualcosa di umano dei personaggi. E il tutto, come avete notato, con un'attenzione visiva formidabile, perché la fotografia è bellissima, e l'attenzione alla composizione delle inquadrature è maniacale, anche laddove tutto sembra molto casuale, invece è sempre molto molto strutturato. Questa è per molto tempo, Jazz in a Summer Day rimarrà un modello per il documentario jazz, rimarrà tale ancora fino agli anni 70-80, un punto di riferimento. Io magari spero che un giorno faranno, non so, Jazz on a Sunday Day, per raccontare com'è la faccia del pubblico durante le lezioni di jazz. Chissà che qualcuno un giorno non faccia un documentario. Allora, piccola parentesi umoristica, il jazz ha qualcosa sempre di gestuale, grafico, visivo, corporeo ovviamente, legato alla danza, l'abbiamo visto, tanti, tanti elementi di questa danza, ma anche qualcosa che ha a che fare col parlare, con l'esprimersi. E in chiave umoristica credo che ci sia un grande comico che più di tutti ha saputo cogliere questa qualità nel jazz, ed è Jerry Lewis. Abbiamo già visto in una lezione su Count Basie, quindi diciamo per i veterani delle lezioni di jazz si tratta di un ripasso, per i novellini è una, spero, benvenuta novità. Ero in dubbio perché Count Basie tra l'altro compare in molti film di Jerry Lewis, era in ballo la scelta della sequenza del Cenerentolo quando lui scende per le scale e c'è l'orchestra di Count Basie, lui va a scegliere la ragazza con cui vuole andare a ballare, che è spassosissima, ma questa è talmente formidabile, poi è breve, insomma funziona bene. Per chi non l'ha mai vista, non spiego niente, diciamo solamente che siamo in un grande hotel, Jerry Lewis, che è anche il regista del film naturalmente, Jerry Lewis è il ragazzo tuttofare, quello che fa tutte le faccende nell'hotel, viene chiamato a destra e a sinistra da Bellboy, il titolo originale, e a un certo punto entra nell'ufficio del direttore a portare dei documenti nell'ufficio del direttore dell'hotel. Questo elemento, il brano era Blues in Oz Flat dell'orchestra di Count Basie, scritto da Frank Foster. Questo elemento gestuale, nell'ottica del cinema sperimentale, può, come abbiamo visto anche per esempio nel corto di Dave Fleischer con Betty Boop, può essere tradotto in termini grafici veri e propri. E in questo il maestro è stato uno dei più grandi maestri del cinema d'animazione sperimentale, il canadese Norman McLaren, che tra l'altro dipingeva direttamente sulla pellicola in modo da avere una corrispondenza esatta tra la colonna sonora che lui aveva come traccia grafica sulla pellicola e appunto i fotogrammi. Norman McLaren, insieme ad altri sperimentatori, ha fatto dei lavori in cui, nella seconda metà degli anni 40, in cui appunto ha tracciato delle idee grafiche astratte come traduzione di pezzi di jazz o di boogie. In particolare il suo capolavoro, probabilmente questo Begone Dull Care, registrato a partire da un brano del trio di Oscar Peterson, scritto appositamente per questo corto, che poi, appunto, una volta registrato il brano, McLaren ha creato questa traccia grafica. Il brano è in tre movimenti, uno allegro, uno lento, una ballad centrale e un breve boogie finale. Noi ascolteremo, anzi vedremo, l'ultimo movimento, il più breve, ma anche qui lo trovate su YouTube per intero, è assolutamente da vedere perché è un vero capolavoro. Non credo ci sia bisogno di commenti, godetevelo. Tempo ad Hollywood il jazz veniva utilizzato anche all'interno delle storie, dei racconti, ma sempre in maniera episodica. Qualche sera fa è capitato di rivedere con mia moglie il film Non voglio morire, di qualcuno l'avrà visto, di Robert Wise, che fruttò a Susan Hayward un Oscar per un'interpretazione memorabile, e questo film molto drammatico si apre con una altrettanto memorabile scena in un club in cui il quartetto di Jerry Mulligan, il sestetto di Jerry Mulligan suona intrattenendo gli spettatori. Spesso nel cinema di Hollywood il jazz viene utilizzato in questo modo, come uno sfondo che non è mai parte reale della storia, o se lo è ha spesso delle connotazioni negative appunto, la protagonista è una donna di facili costumi, che ha sempre problemi con la legge, che frequenta gente ambigua e nel suo locale si fa del jazz, appunto, in questo caso il gruppo di Jerry Mulligan. È molto difficile trovare dei film in cui il jazz sia trattato bene. Poi vedremo il problema delle biografie, ma io sto parlando di racconti in cui la musica abbia un ruolo importante, anche perché tenete conto che c'è un problema di fondo nel racconto cinematografico rispetto al jazz, è che il cinema ha un suo ritmo, la musica ce n'ha un altro, per dirla volgarmente. Per dirla in maniera un po' più dettagliata, cosa vuol dire? Vuol dire che la musica si basa, e in particolare il jazz si basa su un'improvvisazione che è un flusso continuo di idee. E questo flusso continuo fa sì che quello che produce il musicista, diciamo la temporalità del musicista, il tempo che il musicista ci mette ad esprimere le sue idee sul momento, corrisponde al tempo dello spettatore. Se io qui avessi un musicista che suona, mentre lui suona e io lo ascolto e vivo nello stesso tempo del musicista, la sua improvvisazione diventa il mio vissuto. Invece il tempo del cinema è completamente diverso, è un tempo finto, è un tempo ricostruito col montaggio. Tra un taglio e un altro possono passare 10 minuti come 10 anni, o come in 2001 Odissea nello spazio, 1 milione di anni, se vi ricorderete, no? La più famosa ellissi della storia del cinema. Col montaggio io creo uno spazio, ma creo anche un tempo, e questo tempo non è il tempo mio che ci metto per vedere una scena di 2 minuti. Nel film può corrispondere a 10 anni della vita dei protagonisti o a mezza giornata. Quindi il tempo del jazz e il tempo del montaggio non vanno tanto d'accordo. Questo fa sì che l'esperienza di vedere scene di jazz suonato al cinema sono sempre abbastanza frustranti. C'è un'eccezione, ma parliamo ancora degli anni 60, poi vedremo gli esempi più recenti, ed è un film che purtroppo non è mai uscito in Italia, e vi faccio vedere una copia senza neanche i sottotitoli in inglese, che è All Night Long di Basil Darden, 1961, un film inglese, dove all'inizio tra l'altro si vedono dei Brubeck, Charles Mingus, pieno di grandi jazzisti che erano di passaggio a Londra in quel periodo. Il film è molto bello, è una particolarità. E i protagonisti sono tutti, come personaggi, dei jazzisti. Primo punto. Secondo punto, la storia è una storia molto interessante, sapete perché? Perché è la storia di Otello. È Otello raccontato in una notte, dove però i personaggi sono dei jazzisti. Otello in particolare è un pianista nero, che somiglia molto a Duke Ellington, si vede che il modello è quello, che sta con una donna bianca, che è Desdemona ovviamente, e Iago fa di tutto perché Desdemona, che nel film si chiama in un altro modo, venga a suonare nel suo gruppo. Iago vuole diventare il leader del proprio gruppo. E indovinate che strumento suona Iago? Vediamo se qualcuno indovina. Che strumento suona Iago? Il cattivo per eccellenza, che strumento può suonare? La batteria. Lo strumento più rumoroso e molesto che ci sia. Quindi Iago è un batterista jazz che vuole fare il suo gruppo e cerca di portare da sé Desdemona. Invece di un fazzoletto, come vedrete nella clip che vediamo adesso, userà un portasigarette. La differenza con l'Otello di Shakespeare è che l'Otello di Darden va a finire bene. Cioè va a finire che Desdemona e Otello scoprono l'intrigo di Iago, tutti lo abbandonano e all'alba di questa lunga notte, in questo loft londinese, Iago rimarrà da solo a suonare la batteria da solo. Una scena incredibile. Il film è molto bello ed è soprattutto zeppo di musicisti. C'è una lunga sequenza che inizialmente avevo montato per questa conferenza che poi ho deciso di togliere perché è troppo lunga e meno significativa. Una lunga sequenza, per esempio, in cui c'è Dave Brubeck che suona, ma soprattutto è piena di musicisti inglesi e sudafricani formidabili, attivi in quegli anni a Londra, tra cui Johnny Dankworth, che vedremo al sax contralto, e Tubby Hayes, che suonava il sax tenore. C'è anche Harry Beckett, che suona la tromba. Sono nomi che magari non tutti di voi conoscono, ma sono nomi molto importanti nel jazz inglese di quegli anni. Ma quello che è bello è che funziona come film, e soprattutto la musica riesce, cioè Darden riesce a creare la giusta continuità che è al tempo stesso musicale e narrativa. Vediamo Iago con la moglie che parla anche nel loro ufficio, parlano a un certo punto brevemente, lui le dice, guarda, vi ripeto, in inglese senza sottotitoli, grosso modo le dice di non scocciarlo, lui sta facendo delle cose, poi vedrete una scena fatta quasi tutta di sguardi con la musica. Anything ever go on? Oh, of course not. You know that as well as I do. What is it, Johnny? Are you planning something? Whatever I'm doing, it's my business. Understand? Stay out of it. Don't ask questions. Don't talk. That way we'll get along fine. Sure, Johnny. You know I never talk about your business. Honey, please. I wish you wouldn't. Not tonight. Oh, Emily, honey, get out, will you? Leave me alone. Trot over and see to the boys' drinks. Not that I'll be missed here. I'm sorry I was so stupid I couldn't understand why you wanted to go out. Tonight of all nights. I just wanted to be alone with you. This time you didn't get your own way. Do I usually? Usually. But tonight I had to be stubborn. They went to such a lot of trouble to keep it secret. And surprise you. All the surprise I need is that I still have you. I've been worried sometimes. You mustn't worry about us. I'm afraid I keep you away from things you should have. There's nothing else I want. You know that. That's what I want to believe. But then I wake up at night in a cold sweat, thinking you've gone away. Where would I go? Paura che lei la lasci. I don't know. Che lei lo lasci. Some place where I can't follow. But then I see you still there beside me, and I swear I'll never let you out of my sight. Silly, isn't it? Yes. Would you ever be sorry that you married me? Never. You don't feel in an alien world? Don't say that. Is it a wonderful party? Marvelous. I think I'll move in for a few. Here, go, man, go. Is that my face or is this Halloween? Shall we join the ladies? Non a caso, il sentimental mood, Duke Ellington. Le due donne si appartano. Thank you. Johnny hates it when I drink. You know why you and Rex are so perfect together? No. Why? Well, because you gave up so much for him. Oh, I didn't give up so much, really. Oh, yes, you did. A big career. Oh, well, I didn't have... Poi loro parlano della carriera, di musica, tutto giocato intorno all'arrivismo. E forse nella gelosia di Iago c'è anche qualcosa di razziale, no? Perché questa è una coppia mista. Lei è bionda, lui è afroamericano. E il suo odio nei confronti del musicista, nel fatto che non abbiamo visto, ma in una scena precedente lui le offre di suonare nel suo gruppo e lei dice di no. Infatti rassicura poi il suo compagno che non lo lascerà mai e starà sempre con lui. È un modo curioso di mescolare, ma avete visto con quanta naturalezza si passa da un brano all'altro, le inquadrature riescono a tenere conto della continuità della musica mentre i personaggi si muovono, ed è durante il pezzo bop che Iago matura il suo piano, quello di sottrarre il portasigarette a Desdemona per portare avanti il suo piano malsano. C'è un altro film importante nello stesso periodo, è un momento in cui il jazz è molto presente nel cinema, ed è un film celebre su cui non mi soffermerò più di tanto, salvo farvi notare una cosa importante, cioè Ascensore per il patibolo di Louis Malle, che rafforza quell'elemento noir che vi dicevo prima, cioè il fatto che il jazz spesso viene utilizzato o come musica all'interno delle scene, come nel film Non voglio morire di Robert Wise, o come in questo caso come musica di sottofondo, viene utilizzato appunto in atmosfere sempre malsane, legate al delitto, legate al peccato. Da questo punto di vista, il primo film che utilizza questo tipo di atmosfere jazz in una vicenda drammatica legata al sesso è un tram che si chiama Desiderio di Elia Kazan, in cui la musica di Alex North per la prima volta porta in una colonna sonora hollywoodiana le sonorità del jazz, della big band jazz in particolare, perché ricorderete tra l'altro che un tram che si chiama Desiderio è ambientato a New Orleans, quindi c'è questo elemento ambientale tutt'altro che secondario. Quello che rende speciale Ascensore per il patibolo di Louis Malle è che, come sapete, Louis Malle chiede per la prima volta a un jazzista di scrivere la colonna sonora per il film, perché anche se voi guardate per esempio Non voglio morire di Robert Wise, nei titoli di testa il nome del compositore della musica è Johnny Mandel, cioè un compositore di Hollywood che scrive delle cose per il sestetto di Mulligan. Qui invece abbiamo un jazzista che scrive la sua musica, non è solamente l'esecutore della musica di qualcun altro. E Mal ha la grande idea di affidarla a Miles Davis, il quale non aveva alcuna esperienza, e si muove distinto come un jazzista. Va in studio, Mal gli proietta delle scene e lui col suo gruppo improvvisa delle cose basate su dei canovacci semplicissimi, date ai musicisti pochi minuti prima, canovacci molto elementari su cui, più che fare dei pezzi, Davis registra delle atmosfere, ed è questo l'elemento vincente del film. Poi nel film non c'è tanta musica, non c'è tanto jazz, ma le scene più memorabili sono quelle in cui la tromba di Miles Davis va a imprimere un carattere malinconico sul film, in particolare a segnare la solitudine della protagonista. Conoscerete la trama, la protagonista ha un piano col suo amante per uccidere suo marito, l'amante uccide il marito ma rimane chiuso dentro l'ascensore dell'ufficio dopo l'omicidio. Lei, che lo cerca disperatamente, aveva un appuntamento con lui dopo l'omicidio, lo cerca per tutta la notte per Parigi senza trovarlo. Tutta questa vicenda andrà a finire molto male e si intreccia peraltro con la storia di due ragazzini che rubano la macchina dell'uomo che ha dell'assassino, e quindi lei vede anche la macchina del suo uomo portata da due ragazzi. Qui siamo nel punto in cui lui rimane chiuso nell'ascensore, cerca un modo di uscire da questo ascensore bloccato fra due piani perché è andata via la luce, e lei lo cerca disperatamente in giro. La tromba di Miles Davis è il segno indelebile di questa solitudine. Jean Moreau, naturalmente. Vous n'avez pas vu Monsieur Tavernier ce soir? Non, madame. Il n'a pas téléphoné? Non, madame. Ascensore per il patibolo, eh sì, merita, anche per la bellezza di Jean Moreau. Ascensore per il patibolo certifica, diciamo, questa unione fra jazz e noir, fra il notturno e la ballad jazz, fra il vagare, la solitudine e la tromba di Miles Davis. Sembrano proprio fatte l'una per l'altra, sono in realtà il risultato di una felice intuizione di Louis Malle. Ora, in realtà, in Francia tutte le nouvelle vague, anzi non solo in Francia, in mezzo mondo, stavano utilizzando il jazz. Per esempio, un anno dopo, A Bout de Souffle, Fino all'ultimo respiro, il film d'esordio rivoluzionario di Jean-Luc Godard, porta le musiche di Martial Solal, che sono poi jazzistiche fino a un certo punto, in realtà. Ma più che parlare di Godard, vorrei ricordare invece che il jazz ha nutrito l'ispirazione di molti registi di queste nuove ondate, dall'Italia alla Polonia, agli Stati Uniti, alla Svezia, alla Francia e alla Germania, e soprattutto nel mondo polacco, grazie all'apparizione di un personaggio geniale che è il pianista Krzysztof Komeda, purtroppo scomparso prematuramente in un incidente, poco più che trentenne. Komeda è stato non solo uno dei più grandi compositori e jazzisti nati e cresciuti in Europa, ma è stato il coprotagonista di quella straordinaria stagione di rinascita del cinema polacco degli anni 50 e 60, capeggiata da Andrzej Wajda, che come sapete purtroppo è scomparso poco tempo fa, e poi dopo Wajda, di cui tra l'altro Komeda scrisse la colonna sonora jazz di Ingenui Perversi, e poi invece Roman Polanski, Franti, con cui Komeda ha stabilito un sodalizio che si è interrotto solo con la sua morte prematura, che va dai primi corti di Polanski fino al suo esordio nel lungometraggio Il coltello nell'acqua, che è una delle colonne sonore jazz più memorabili che ci siano, fino alle atmosfere inquietanti e non jazz, ma molto felici, molto riuscite, di Rosemary's Baby, che è l'ultima partitura scritta da Komeda per Polanski. Io però, invece di farvi vedere Il coltello nell'acqua, vado a scegliere un film che secondo me è dimenticato e che probabilmente molti di voi non conoscono e che ha, a mio avviso, la colonna sonora di Komeda più spettacolare, che è un film di Jerzy Skolimowski, che anche lui continua a essere attivo, tra l'altro, che si chiama in italiano in maniera infelice Il Vergine, Le Départ è il titolo originale, con Jean-Pierre Léaud, che veniva dritto dritto dalle esperienze di Truffaut della Nouvelle Vague, è la storia di un ragazzo che è un maniaco appassionato di automobili. Il titolo italiano si giustifica col fatto che ha una pseudo storia d'amore con una ragazza che non va in porto perché lui preferisce le automobili a questa ragazza. E infatti c'è un tono di commedia che addirittura in una scena diventa addirittura una cosa quasi chepliniana, con la musica di Komeda che è straordinaria. Allora, che succede? Siamo poco dopo l'inizio del film, lui è andato da un concessionario, si è fatto dare una Porsche, ha un accordo con un amico per questa piccola truffa che poi incrocia, come vedrete nella sequenza subito dopo l'inizio, comincia a correre per la campagna accompagnato dal jazz vertiginoso di Komeda, poi si affianca ad un'auto, fanno un po' a gara, chiacchiera poi col proprietario dell'auto, il quale lo saluta e se ne va. Bonne chance. Lâche-moi, mais qu'est-ce que t'as? Il faut que ton copain m'a tout raconté. Ah, le salaud, il t'a tout raconté. Oui, demain. Ah, lâche-moi. Salaud, mais lâche-moi. Lâche-moi, salaud, de faire côté. Lâche-moi, je te pourrai la gueule. Je te pourrai la gueule. Lâche les plaques. Oui, t'es lâche les plaques. Lâche les plaques. Lâche les plaques. Voilà, ton copain m'a tout raconté. T'as du bon. J'en tiens pas tout. Lâche la plaque. Oui, ta plaque, voilà. Lâche, salaud. Bon, fous de tes blagues et tiens encore. Oh, tiens, rigoler, faire un peu de fric. Je suis d'accord. Ça fait en tirer, c'est ça. Il y a. Et maintenant, maintenant, tu me suis jusque chez le port, fermez immédiatement l'auto. Ça le lâche. Allez, flic. Ça le lâche. Ça le lâche toi-même. Pars-toi. Merde. Ouais, je te barre, t'as intérêt à me suivre. Petit salon, je te préviens, chez le port, je te casse la gueule. C'est un peu de Chaplin. Dans un quart d'heure, c'est Porsche, il serait même avant toi! Allô, oui, bien. Ah, mademoiselle, je vous donne un annonce, monsieur, le tirage au sort a eu lieu, s'il vous plaît. Oui, oui, la liste des partants est affichée là-bas. Où ça? Là-bas. Là-bas! Pour participer à une gara di automobili. Ovviamente, non ha una macchina sua, per questo le va. Ah, numéro 9! Ah pardon monsieur, je voudrais vous demander un renseignement, je me suis inscrit avec une Porsche et je voudrais savoir, enfin j'ai le numéro 9, je voudrais savoir si... Au fond là-bas. Ah vous pouvez pas m'enseigner. Ah pardon monsieur, vous êtes bien monsieur Paul de Rivière? Oui. Bah écoutez, je voudrais vous demander un petit renseignement, je me suis inscrit avec une Porsche, j'ai le numéro 9 et je voudrais savoir si c'est pas possible de changer de voiture. Si vous êtes inscrit avec une Porsche, vous devez courir dans la même catégorie. Mais écoutez, regardez ma Porsche là, elle est mal garée, mais les freins sont mal réglés, enfin ils marchent pas. Je voudrais savoir si, je ne sais pas, je pourrais pas partir avec une Mustang ou avec une Jaguar. Vous pouvez avoir une de oui, ces oui, voitures. Oui, oui, oui, oui. Mais enfin, je vous demande ça, c'est uniquement pour le principe. Pour le principe, vous pouvez avoir une de ces voitures, alors faites régler vos freins. Oh, merde. Thank you. puis dit que c'est les gens qui l'ont fait. C'est pas vrai, moi je l'ai vu, moi. Moi je l'ai vu, c'est toi qui l'avais fait. Non, mais enfin, Chili, mais parce que c'est pas une autre petite poisson. Oui, c'est lui, il a vu, c'est en canou. Monsieur, il a vu, c'est lui, il a vu, oui. Que de poisson ici, écoutez, c'est lui. C'est toi! Questo è un frammento del Vergine, che è un film straordinario, come avete intuito, e l'uso del jazz che Skolimowski fa della musica di Komeda qui è in linea col senso di libertà che esprime questo cinema, cioè il jazz è funzionale a questo tipo di cinema che manda all'aria le regole narrative tradizionali. Avete visto queste infinite scazzottate, perché con il motociclista, prima con l'amico, un po' alla Chaplin, quando lui corre dietro al vigile, si nasconde e quello lo insegue di dietro. E la musica diventa martellante, ossessiva, non esprime una psicologia, come nel caso di lui Mal, al contrario, rende tutto molto più distante, più distaccato, e per certi versi crea un effetto, in questa distanza crea un effetto ironico, un effetto quasi comico, che viene sottolineato nel momento in cui Komeda scrive la stessa musica rallentata. Più la musica rallenta e meno il personaggio di Jean-Pierre Léaud si quieta e continua a fare casini e a litigare con le persone. La Nouvelle Vague è stato un fenomeno principalmente francese, come sappiamo, ma anche del nord Europa, polacco, dell'est. La settimana prossima, per chi è appassionato di cinema, non necessariamente di jazz, la Cineteca di Bologna rimette in circolazione Gli amori di una bionda, il film del debutto di Miloš Forman, quindi nella piena Nouvelle Vague cecoslovacca, un altro grande film. Ma c'è stato qualcosa anche in Italia, in particolare c'è un regista che ha anticipato la Nouvelle Vague italiana nel 1965, che è Gianni Amico, un personaggio molto molto singolare, che tra l'altro a Roma ha anche lasciato un segno molto importante dal punto di vista musicale per varie iniziative fatte negli anni Ottanta, che nel 65 girò questo documentario, se vogliamo usare questa parola, che si chiama Appunti per un film sul jazz, che è un po' l'equivalente delle cose Nouvelle Vague di Godard o di Skolimowski o di Miloš Forman, ma in chiave documentaria. Secondo me Appunti per un film sul jazz, che dura solo 30 minuti e di recente è stato ristampato in DVD insieme ad un altro film sul jazz di Gianni Amico dalla Cineteca di Bologna, E negli extra c'è un eccezionale contributo del sottoscritto anche. Nel DVD, scusate, nel film, troverete qualcosa di veramente speciale. Cioè, questo è forse il miglior documentario sul jazz che sia mai stato fatto, secondo me. Perché è girato in modo jazz. Gianni Amico, con la macchina da presa, un microfonista e forse, chissà, uno con la luce, va in mezzo ai musicisti e cattura un momento, lo vedrete, vari momenti. Vi faccio vedere l'inizio. C'è Don Cherry con Aldo Romano, Steve Lacy e altri musicisti che arrivano a Bologna, alla stazione. È stato girato durante il Festival del Jazz di Bologna del 65. Arrivano a Bologna, ci sono dei loro amici, gli organizzatori, che li vanno a prendere, chiacchierano, poi vanno sul palco e voi non sentite mai la macchina da presa. Vi sembra di essere lì in mezzo. Nessuno guarda in macchina, siete una delle persone che stanno lì e tutto è montato, è girato con una fluidità, con un senso dell'improvvisazione, perché lui non sa da quale carrozza scende Don Cherry del treno. Siamo sul binario 1 della stazione di Bologna, la riconoscerete, poi andiamo al Teatro Comunale e è tutto improvvisato sul momento, ma Amico ha un senso, come dire, musicale dell'improvvisazione, dello stare in mezzo alle persone e poi del montaggio, magistrali, i primi minuti di questo film. When I was here with Sonny Rollins. And, how do you feel now? Yeah, I really feel like, and in the same musical groove that I was in then with Sonny, you know, I can feel it coming back to me from just being back in Italy again. It's a lot of music here in Italy. You know? Yeah. But you know one thing? Yeah. When we was in Paris and played together with Gatto and the group, you know, I think we was hoping for that it would be this beautiful in Paris, but it wasn't. But the only brilliance like the sun was the music. Wouldn't you agree with that? Right? That's right. The music was the only thing that was really like when you said that night in Paris, you said the last night, you said it seemed like one long night, remember? That's right. I remember that phrase very much. Because, you know, for one thing, like, you know, much time we put in it, we had practiced every day. We didn't. That's right. And then, like, you know, this is the first time in my life since playing with Arnett Coleman that I've been around five musicians where that, you know, we could just live and eat music like we did, and that was really fantastic. And all of them was thinking that. That's what the feeling of Italy is like, a festival. Yeah, that's the feeling I'm thinking of. Oh, yeah? I must write a song while I'm here with that feeling of the festival. Yeah, it's nice. From the time I got off the train there, I had that feeling of, you know, all in with the festival. But see, that's another beautiful thing, is we can get away from words now. The festival. Yeah. The music. It's just music. Just music. Just music. Okay, so we solo a while, and I play, and you play, and then take Lacy it from the bridge and the coda. All right. Uh-huh. What does this mean? Yes, this. Which, there's no. That's a mistake. This is the chord. Yeah, but C. C half. Like this. Where is it? Bridge. Yeah. Chad Benjamin, you think that'll be all right? Yeah. Be able to solo and everything on it? Chad Benjamin? Yeah. Any kind of thing like that. Pong, pong, pong, ping, pong, ping, ping, ping. That's the tempo, Steve? Yeah. Era un frammento di, mentre suonano pezzi di Monk, di appunti per un film sul jazz di Gianni Amico. Qui vediamo i musicisti di jazz come persone, ci stiamo in mezzo, siamo con loro, come professionisti e come persone. Don Cherry che parla delle sue sensazioni nel ritorno in Italia, stando in taxi, e poi avete visto le prove, i musicisti si danno delle indicazioni, Gianni Amico va dietro le quinte, coglie delle scene di gente che chiacchiera, qualcuno che perde tempo in platea, cioè è veramente qualcosa che si avvicina alla vita di un jazzista, perché in generale le vite dei jazzisti al di fuori del documentario non sono mai state veramente ben raccontate. Se guardiamo i film degli anni 40, soprattutto degli anni 50 in poi, Hollywood in particolare ha trattato i musicisti di jazz in modo falso, sostanzialmente, e soprattutto in modo, in quel modo tragico per cui ci deve essere sempre la figura maledetta del jazzista geniale e maledetto, come in Chimere di Michael Curtis con Kirk Douglas, che poi peraltro finisce pure bene rispetto alla storia originale a cui si ispira, che è quella di Bix Beiderbecke. Le cose cambiano negli anni Ottanta. Negli anni Ottanta cominciamo a assistere ad un interesse reale per i musicisti di jazz, sia in una finzione totale, come per esempio in un film, secondo me, capitale, che è Cotton Club di Francis Ford Coppola, che è un film bellissimo, anche perché la ricostruzione della New York di quegli anni, del Cotton Club e della musica di quegli anni è maniacale. Ci troveremo pure delle citazioni di Black and Tan di Dudley Murphy e dei filmati con Duke Ellington, in cui il protagonista è Richard Gere nella parte di un cornettista chiaramente ispirato a Bix Beiderbecke, e onore a Richard Gere, che non sarà un genio nella recitazione, ma ha, come dire, suona la cornetta non doppiato, facendo tutti gli assoli di Bix, e poi la ricostruzione della musica di Duke Ellington. Un grande film sotto molti aspetti. In realtà il film chiave di questa storia è Round Midnight di Bertrand Tavernier. Ancora una volta il cinema francese si mostra un passo avanti da questo punto di vista. Perché? Perché Round Midnight ha due qualità. Uno, mostra la vita del jazzista per quello che è, anche nel suo squallore, senza fare del maledettismo. Come sapete, il film si ispira alla vicenda vera di Bud Powell, quando fu accolto a casa dell'amico Francis Podrà a Parigi e rimase da lui diversi anni. In realtà poi il film ha come protagonista un sassofonista e non un pianista. Secondo, il protagonista del film è un jazzista, è un musicista, non è un attore di Hollywood, non è Kirk Douglas doppiato da Harry James in Chimere. È Dexter Gordon, uno dei più grandi sax tenori del jazz, che quindi ci mette se stesso nel film. E non è neanche come Miles Davis in Ascensore per il patibolo, che suona fuori scena, è lui sulla scena. E Bertrand Tavernier gli dedica delle scene meravigliose in cui lui e Francis chiacchierano senza neanche la musica. E io una di queste scene voglio farvi vedere, purtroppo è in originale senza sottotitoli, ma in sostanza all'inizio chiacchierano un po', poi a cena Francis gli chiede quali sono i suoi musicisti preferiti, gli dice che gli piace Debussy, poi fa un complimento alla bambina, poi vanno a Versailles e dice: ma Luigi XIV ci vive qui ancora da molto tempo? Dice: ci vive ancora qui? Dice: no, dice, è morto. Dice: come è morto? È morto da molto tempo. Poi si abbracciano scherzando, perché lui fa la parte del jazzista ignorante, ma lo sapeva benissimo. Dexter Gordon sfiorò l'Oscar con questa interpretazione, e non per quello che suonava, ma per come recitava. Si rivela un gigante, purtroppo morirà poco dopo, un gigante non solo fisicamente, ma anche attorialmente. Questa è la vita del jazzista. Il contesto è questo: lui è arrivato a Parigi, sta in una stanza d'albergo fetente, lui alla fine, Francis lo riaccompagna e gli dice: devo andare, c'è mia figlia che mi aspetta, è tardi. E lui, perché lui dice: la notte non è ancora finita, vuol dire non mi lasciare solo, perché dietro ci sono la droga, l'alcol. Però lui deve andare, a una famiglia, una figlia in particolare, perché si sta separando dalla moglie. E c'è questo momento di solitudine molto forte. Non c'è musica qui, non vi faccio vedere Dexter Gordon che suona, ma la vita del jazzista. You understand what I'm saying? All these young kids sound the same. Just like they had the same teacher. Vedete che toglie il vino, lo annacqua. Yeah, me. And a few others. You act like my little girl. C'est Béranger. Sits down, he listens. And then he comes up to me and says, I play you. Dice che un tizio è better than you. E mi ha detto: suono te meglio di te. Your music changed my life. La tua musica mi ha cambiato la vita. I would never have read Rimbaud or any other poets. Because of your music, I've discovered a lot of musicians. Francis, is there water in this wine? C'è dell'acqua in questo vino? Dice sì. Qu'est-ce qu'il a dit? Je te dirai. It doesn't look good, but it is. Who are your favorite tenors? Quali sono i tuoi sassofonisti preferiti? Oh, Lester Young, Coleman Harkins, Ben Webster. And I also used to listen to a lot of Debussy. Debussy? Debussy, ascolti. Béranger. That's a big name for a little girl. Berenice è un nome grosso per una piccolina, ma lei non capisce. Francese, come here. Does Louis the 14th still live here? I know. Dice, vive ancora qua Luigi XIV. He died for a long time ago. Are you sure? Yeah. I'm sure. Béranger waits for me. But it's a long time before it's light again, man. Questa è la vita del jazzista di quegli anni, una stanza d'albergo squallida e molta solitudine. Non c'è bisogno di mostrare la musica per capire il confronto tra le condizioni in cui vive un afroamericano che suona jazz e la sua musica. Round Midnight apre, come dire, una strada e a Hollywood finalmente si accorgono che si possono fare film sul jazz. Uno dei più controversi, che non vedremo qui, è uno dei più famosi, è Bird di Clint Eastwood, controverso non solo per l'immagine esclusivamente maledettista che dà del personaggio, ma anche perché Eastwood fece un'operazione molto discussa, estrasse gli attori di Charlie Parker e li sovraincise a una sezione ritmica contemporanea per dare un suono moderno alla sua musica. Il vantaggio di avere dei musicisti di jazz sulla scena è che suonano non doppiati, ma quando hai bisogno di attori importanti come in Mo Better Blues, che racconta delle paturnie, diciamo così, di un trombettista di jazz contemporaneo, diventa un po' complicato, perché qui c'è Denzel Washington che deve doppiare la musica di Terence Blanchard, che è l'autore delle colonne sonore degli ultimi film di Spike Lee. Mo Better Blues non è un film completamente riuscito, ma è nelle sequenze musicali una dei risultati più veritieri nel catturare la performance jazzistica, un po' come fece Bert Stern nel documentario Jason e Summer Day, nel catturare la performance jazzistica attraverso degli attori. A Bologna l'anno scorso abbiamo avuto ospite al Bologna Jazz Festival, al Conservatorio di Bologna, Terence Blanchard ci ha spiegato come sono state girate queste scene. Vedrete la perfezione con cui Denzel Washington suona la tromba, così come anche gli altri attori, Wesley Snipes suona il sax tenore, e che Blanchard aveva fatto la colonna sonora, poi ha fatto un filmato in cui al rallentatore faceva tutte le posizioni della tromba, Denzel Washington le ha imparate a memoria e poi, senza suonare veramente, le ha riprodotte durante la sequenza. Ho aggiunto a questa scena molto bella perché si vedono molto bene le dinamiche interne, che è una cosa che nei film sul jazz non si vedono mai, nei film di finzione, anche una scena dietro i camerini, perché si capisce che cosa succede dietro un camerino tra musicisti di jazz che cominciano ad avere delle tensioni fra di loro. I want you to pick up the horn. Lui è piccolo. And you're gonna play. Deve studiare la tromba per forza. You hear me? And you're gonna do it now, right? Now. Boy, I think you better do what your mother says, okay? Now. Moose is working on a no hitter, but nonetheless, we're going to have warm up. I still hate it. Coach, fire his ass. Every night, 3 hour solos, bleep for self. It's your band. Rid this guy. Go out there and play. Great. Bleep, just talk to the guy, right? Talk to him. Van Lacy on the piano. Left hand. The Earl himself. The Earl of Rhythm. Rhythm Jones on the drum. Thank you, thank you. On the bottom, the bass, we have Bottom Hammer. Bottom Hammer. Tenor and soprano saxophone. Shadow Henderson. Shadow Henderson. My name is Blake Gilliam, and he's the best. But he knows it, huh? Get the nerve. He's the best, I got. The best. It's your band. It's your band. We thank you for coming, because you didn't have to come. You could have stayed home and watched Arsenio Hall or something. No, hey, listen, I got nothing against the brother, you know? God bless him. But thank you again for coming, and this concludes our first set. We'll be back shortly. Oh, listen, got some beautiful waitresses here, so put them to work. Give him some business and a fat tip. Speaking of fat. Don't get mad, Blink, and tell me to kiss your ass. I would if you blew your nose. I know I'm in here now. Butterbean! Thank you! House boy! House boy! Woo! Hey, man. Nice, boy. Hey. Nice set. Where you see the girls up in the front? Girl in the purple? Oh, girls, man. She crossed her legs. I saw Sparks fly out. What's up, man? She's a big bass bully. Oh, man, she was fine. She was looking at me the whole show, too. She was looking at me the whole motherfucking show, man. No, I'm getting that phone. Yo. Cut the bullshit. Hold up. Be quiet. Shadow, what's up with this ego stuff, man? What's up with the housing? Huh? Look, you're grandstanding. Look, man, you're the only one that's complaining. Everybody else is okay. What do you mean everybody? Everybody who? The audience got no problem. Oh, the audience got no problem. So all now you're doing now is playing for the audience, huh? That's what I'm saying. That's ego, grandstanding. Just relax on that. Cut it hey, out. Look, okay? Man, do I tell you what to play? Hell no, you don't tell me what to play. Is your name on the marquee? Shadow sounds good, man. Now, shut up. Who asked you, left hand? Hey, nobody asked me. Well, shut the fuck up! Yo, what the fuck is this, man? Hey, wait a minute, hold on. You shut the fuck up, midget. Fuck that shit. Yo, man, my name is Giant, all right? Look, blame your motherfucking yo, right, mother, man. Yo, chill, on the real side, on the real yo, side. Yo, why don't you talk about my mother, man? You don't touch me for what's yo, what's yo, yo, yo, yo, yo, yo. Talk about my mother. On the real side. Chill, everybody chill. For one second. Wow. On the real side, relax on the solos, okay? Bring them down a little bit, all right? Did you come do that down, for me? You come down to an hour, do you think? Maybe an hour, 45 minutes? You do have an option. You know, you can always quit. What? Yeah, are we playing with balls, man? Huh? Yo, hold up, man. I said you can always take your ball. Oh, you're right. You're right. I could quit. Hey, wait. So now you come quit. Hey, he ain't quit. Let us go. Where you going? To the bathroom, right? Se ne va in bagno, non se ne va certo. Dunque, sono 1:05. Io dovrei finire qui, ma avrei un'altra clip di 5 minuti. Che faccio? La faccio. Non vorrei creare dei problemi allo staff lì. Vado, ok, mi hanno dato l'ok. Vi faccio ritardare il pranzo solo per farvi vedere una cosa più rara. Ricordiamo il contributo fondamentale per concludere, di Pupi Avati con un film, Bix, molto noto, una biografia, ma meno noto, ma più bello ancora, è Jazz Band del 1978, una miniserie TV di altissimo livello sul jazz italiano, sul Dixieland italiano. Il più importante documentario fatto negli Stati Uniti su un jazzista che Thelonious, scusate c'è un refuto, Monk, Strait No Chaser di Charlotte Zwerin. Quelli che molti considerano la migliore biografia fatta su una jazzista di finzione del XXI secolo, Monica Zetterlund, una pianista e cantante svedese fatta qui da un regista danese. E vorrei concludere mostrandovi un frammento di un film in cui, per questo ve lo faccio vedere, ci sono dentro anch'io, ma ci sto talmente tanto che non ho trovato un appunto in cui non ci sto, quindi mi perdonerete. Che, a parte gli scherzi, è a mio avviso uno dei lavori più straordinari che siano mai stati fatti su un musicista di jazz, perché è un documentario in cui il musicista è completamente immerso nella storia e ogni santo fotogramma ci parla di questo rapporto tra la musica e la storia. La storia è quella di Tony Scott, un musicista, come sapete, di origine siciliana, un grande clarinettista. Vi faccio vedere un pezzetto di questo documentario che purtroppo per traversie produttive non ha circolato molto e speriamo che possa accadere presto in futuro, magari in DVD, in cui viene raccontato il momento in cui, visto che alla fine degli anni 60 nella scena del jazz statunitense tutto stava cambiando e Tony Scott non si ritrova più in quella scena, decide di tornare in Italia. È un momento in cui le certezze della musica e della professione vengono letteralmente demolite. Quindi la clip che guardiamo si inizia in questo modo. Il Tony Scott di questo periodo è un uomo sempre più inquieto, agitato, incapace di restare a lungo su un progetto. E nella New York degli ultimi anni 60, in cui tutto cambia continuamente alla velocità della luce, Tony si sente ormai un alieno, il sopravvissuto di un passato che non interessa più a nessuno. Decide così di lasciare New York per sempre e di stabilirsi in Europa, insieme a Pauline e alla piccola Nina, che d'ora in poi condivideranno con lui una vita sempre più nomade e precaria. La musica che sentite è tutta di Tony Scott, sempre. La notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1968 la terra trema nella valle del Belice con violenza inaudita, inghiottendo tutti i paesi e i villaggi che la abitano, compresa Salemi, la cittadina dei suoi avi. Quando è venuto subito dopo del terremoto nel 1968, è rimasto così scioccato che l'ho visto piangere veramente. Now, being in Europe, you know, I've settled in Italy because, as I said, I'm from Sicilian people and this is closest to Sicily. Tra pochi istanti assisterete a un'esibizione jazzistica del clarinettista Tony Scott, l'italoamericano Antonio Sciacca, in alcune sequenze di Blues Soul. Il Festival Pop 70 rimane a tutt'oggi il primo e più importante raduno musicale mai organizzato in Italia. E per 3 giorni Palermo fu una piccola Woodstock, con migliaia di ragazzi che per la prima volta sognarono una Sicilia peace and love, una Sicilia senza confini e soprattutto senza mafia. Contagiato da cotanto entusiasmo popolare, il nostro Tony Scott, reduce da un lungo tour in Africa, pensa addirittura di stabilirsi in Sicilia. Poi però il buon senso. To begin, I thought, wow, my country, Sicily, you know, is not made for me. So anyway, so I brought the family up and to Rome. And then while there, I found a house, beautiful house. And then we had Monica. And then I started life in Italy. A suo modo ebbe una sua forma di sfortuna. Era un uomo cosmopolita, aveva girato il mondo. E finì nel paese in quel momento più provinciale possibile immaginabile. L'arrivo di Tony Scott in Italia vede Tony Scott arrivare in un paese che jazzisticamente sta subendo una profonda trasformazione. Sono gli anni in cui comincia a emergere l'avanguardia del jazz italiano, cioè giovani musicisti che, ispirati dal free jazz americano, cercano nuove strade. E lo spartiacque era molto preciso. Da un lato il jazz tradizionale, dall'altra parte il free jazz. Non c'era spazio per un musicista come Tony Scott. E allora cosa ha fatto Tony? Tony è riuscito a coinvolgere dei musicisti che riuscivano a suonare un jazz che a lui stava bene. Qui lui ha frequentato degli ambienti che non voglio offendere nessuno, ma secondo me non erano i migliori. Gli ambienti del jazz più tradizionale. È una cosa molto curiosa perché alla fine è stato identificato come un musicista tradizionale, il che era ben lungi dall'essere, secondo me, uno dei grandi rivoluzionari della storia del jazz. Dunque, nell'Italia dei primi anni 70, l'Italia dei poteri occulti, del terrorismo rosso e nero e delle stragi di Stato, anche la musica si politicizza e il mondo del jazz si divide nettamente in 2 parti. Da un lato i tradizionalisti, considerati di destra e borghesi, dall'altro i progressisti, gli antiborghesi che portano il jazz nelle fabbriche e suonano preferibilmente a Umbria jazz. Non potevi intitolare un pezzo blues, no? Dovevi intitolare ballata per il compagno che ha avuto il motorino rotto durante la carica del polizia. Applausi, no? E poi quello che succedeva. E Tony Scott queste cose non le faceva. Se suonava blues, suonava il blues, senza porsi nessun problema. Secondo me Tony praticamente non si inserisce nella scena italiana e tutta la cosa politica e non politica, cioè non ha nulla a che vedere con lui. Non solo, ma secondo me Tony non è stato assolutamente capito in Italia, tant'è che lui con chi è andato a suonare? Con Romano Mussolini. Scott e Romano Mussolini si conoscono nel 1970 e per 5 anni i due suoneranno spesso insieme. Ben presto, attorno a questa strana coppia, nascerà una divertente aneddotica. Siamo andati proprio a Salerno a fare un concerto e sembrava proprio di essere tornato ai tempi del ventennio, con la giunta comunale, tutti vestiti di scuro. Quando noi siamo entrati, loro scattarono in piedi, battendo i tacchi e facendo un saluto fascista. E io mi sono ritrovato automaticamente in quegli anni. A questo punto, alla luce di certe testimonianze, urge rispondere a una domanda. Ma Tony Scott fu un fascista? A giudicare dal look di quegli anni, caratterizzato da abiti e stivaloni neri, testa rasata e collane con denti di felini feroci, il sospetto francamente è legittimo. Inoltre, come spiegare il lungo sodalizio artistico e umano con il figlio del duce? Tony aveva bisogno di guadagnare dei soldi e Romano Mussolini era uno che lavorava 5-6 giorni alla settimana e quindi era giusto che Tony andasse a suonare con Romano Mussolini. Romano Mussolini sapeva bene che gran parte del suo ingaggio arrivava dal nome che si portava dietro. A me capitò di vederlo, per esempio, in qualche concerto, addirittura vendere quadri fra il primo e il secondo tempo, quadri firmati da lui, ma che probabilmente non erano neanche realizzati da lui, per arrotondare la serata in qualche modo. Questo qui ovviamente metteva in grande imbarazzo i musicisti, Tony Scott in prima persona, e ci fu anche qualche bisticcio, anche qualche lite. Col passare del tempo, Tony e Romano cominceranno a litigare sempre più spesso, principalmente per il modo pasticcione con cui Mussolini organizza i concerti, ma anche per più futili motivi, nella cui imbarazzante banalità si intravedono i primi segnali della deriva professionale ed esistenziale verso cui Tony sta avviandosi lentamente. Questa dissolvenza in nero ci porterà poi verso la deriva psichica di Tony Scott. Avete visto con quale ricchezza documentaria di montaggio musicale del rapporto tra storia e musica. Noi siamo giunti alla fine, volevo giusto segnalarvi questo film su Miles Davis, che secondo me è molto discusso ma molto bello, che si trova su iTunes, non è mai uscito nelle sale italiane, che contiene, secondo me, la sintesi di quello che abbiamo detto. È una storia completamente inventata, totalmente implausibile, ma che racconta qualcosa di autentico, cioè come era veramente Miles Davis, attraverso la finzione assoluta, trasformandolo in un gangster. Forse questa è la strada per raccontare il jazz al di fuori del documentario, cioè spingere su quella cosa su cui il cinema fonda il suo fascino, la finzione, per raggiungere una verità profonda. Grazie.